Buongiorno a tutti e bentornati a questa nuova puntata di G-Cookies. Siamo alla numero 17 e oggi con me c'è come al solito Mario da Berlino. Ciao Mario. Ciao a tutti. E abbiamo un ospite di eccezione. Abbiamo Enrico Colombini ai microfoni con noi. Benvenuto Enrico e grazie per essere qui. Grazie a voi per la disponibilità. Ma soprattutto grazie a te per aver accettato questo invito. Non so se tutti i geek all'ascolto di questo podcast conoscono Enrico, ma facciamo una introduzione molto molto rapida. Se siete abbastanza vecchi conoscete tutti Avventura nel castello, la prima avventura testuale scritta per Apple II, se non mi sbaglio, ecco, la scritta Enrico. Ho detto tutto giusto? Direi di sì. Perfetto. Io non ho le prove che sia la prima, magari qualcuno l'ha scritta in cantina e poi non l'ha pubblicata. Ma diciamo che pubblica è la tua. Direi di sì, almeno quel che se ne sa e a quel che ne so anch'io. Molto molto bene. Tra l'altro diremo poi durante la puntata come, ma si può ancora giocare questa avventura. Non spoileratevela andando a cercare le soluzioni, perché sembra tutto facile con le soluzioni in mano, ma col prompt dei comandi che ti chiede che cosa devo fare diventa molto più difficile. Allora, diciamo che possiamo cominciare chiedendo a Enrico una breve introduzione su chi è lui, quando ha cominciato a fare quello che fa e cos'è che fa ora. Enrico, la palla a te. Noi ci sentiamo liberi di interromperti se ci vengono domande o dubbi, ok? Ok. Beh, quando ho cominciato a fare quello che faccio, direi a 3 anni, quando mi hanno regalato il Meccano, perché sostanzialmente non c'è una grande differenza tra giocare col Meccano, giocare con l'elettronica o scrivere del software. Alla fine sono sempre pezzi da mettere assieme e inventarsi un modo nuovo per collegarli. Poi, a parte il Meccano, ho cominciato abbastanza presto a giocare con l'elettronica. E quando mi sono trovato male all'università mi sono messo a fare il progettista elettronico indipendente, prima in audio e poi era il periodo in cui iniziavano le prime radio private. Ho contribuito anch'io a una che allora si chiamavano Radio Libere, era un'illusione, e mi sono messo a fabbricare componenti per i produttori di impianti di radiodiffusione. Penso che una buona percentuale dei trasmettitori del nord Italia montino il mio modulatore, anche se non lo sanno, perché io fornivo vari produttori. E è stato in questo periodo, no, forse non ancora in questo periodo, poco dopo ho scoperto, ho visto che si parlava di questi strani aggeggi, i microprocessori, non sapendo bene cos'erano, perché allora non è che si poteva googlare per andare in giro a vedere di cosa si trattasse. Sono andato a una fiera a Milano e lì mi sono comprato un Kimuno. Il Kimuno, per chi non lo sapesse, cioè quasi tutti penso ormai, era una piastra di valutazione che montava un 6502, quindi lo stesso microprocessore dell'Apple II e del Commodore 64, un tastierino esadecimale, un'interfaccia nastro e un displayino a 8 cifre, se ricordo bene, in cui naturalmente i programmi si inserivano dal tastierino esadecimale in esadecimale dopo esserseli compilati a mano. E con quello è stato il punto di partenza, con cui poi abbiamo fondato un'azienda con alcuni amici e con Chiara, e abbiamo fatto materiale, schede a microcontrollore per applicazioni industriali per un po' di tempo. E è stato in questo periodo che la sera, a tempo perso, abbiamo scritto Avventura nel castello. Ma una domanda, se tu avevi il Kimuno, Avventura nel castello, con che cosa la scrivevi? Ho saltato qualche passaggio. Ah, ok, no, perché io ero... No, ero... è stato il periodo in cui producevamo, quindi dopo un paio d'anni col Kimuno, che poi ha continuato a funzionare come sistema di sviluppo con un assembler, non più assemblando a mano, abbiamo affiancato un PET 2001, se non sbaglio era il 78, quindi il Kimuno era il 76, il PET 2001 era il 78 e l'Apple 2 nell'80, e a quel punto avevamo iniziato l'attività industriale, appunto, per cui avevo da poco l'Apple 2 e avevo già fatto passare una buona scorta di software, che, come ben sapete, all'epoca i distributori praticamente non esistevano e la distribuzione principale consisteva nel copiarselo e passarselo tra i pochi che allora avevano un Apple 2, che non era particolarmente diffuso perché costava un sacco di soldi, quindi noi ce l'avevamo per lavoro, prenderlo per hobby era un po' un'impresa, a differenza di quel che sarebbero stati poi gli home computer come il Commodore 64. Quindi avevo quella macchina lì e avevo giocato un sacco di giochi, uno dei quali era Apple Adventure, che non era altro che la Colossal Cave, cioè la prima avventura testuale ovviamente della storia, portata su Apple 2. Per la verità l'avevo vista un anno prima, penso, in una fiera che girava su un qualche computer più grosso, poteva essere un PDP, non lo so, non ero in grado di distinguerli, e ero rimasto affascinato a questa cosa qui. Poi, avendoci giocato abbondantemente e incidentalmente anche aperto la protezione perché avevo bisogno di salvare, di avere un salvataggio permanente, perché era fatto in modo un po' cattivello quel gioco lì, Apple Adventure. Se uno moriva, moriva e doveva ripartire dall'inizio, quindi non c'era un save, quando usciva salvava la situazione. Naturalmente si poteva farsi una copia del file tra un avvio del gioco e l'altro, però era una scocciatura. Per cui ne ho approfittato per capire come funzionavano i dischi dell'Apple 2 e togliere quella loro protezione, che poi era estremamente semplice, che non impediva di copiarlo ma impediva di fare più salvataggi. Quindi ho modificato il programma per fare un po' di salvataggi a mia scelta, e così l'ho potuto finire in un certo senso barando, ma altrimenti sarei ancora lì, perché se uno deve rifarsi il giro delle 350 locazioni e muore all'ultima, non è carino. Diciamo che è un po' antipatico quando il videogiocatore è frustrato da queste cose, e purtroppo è una cosa che capita anche nei giochi di oggi. Ora non so se sei ancora un videogiocatore, ma in molte console capita che il gioco ti impedisca di salvare se non in certi punti checkpoint. Sì, e il fatto è che certe volte tra un checkpoint e l'altro passano tipo 4 ore di missione, diventa veramente di una antipatia rara. Quindi hai fatto l'hacking, quello fatto bene, non per piratarlo, ma per poterci giocare e poterti divertire. Beh, ai giochi gioco ancora un bel po', penso di essere di avere dato un bel po' di soldi a GOG. GOG è una piattaforma pericolosissima. Sì, si continua a spendere, infatti. Vero, vero. Un'offerta, un'altra offerta. E lo Steam delle persone un po' più anziane, perché noi ci divertiamo ancora con i giochi, non gli ultimi. Perché ora Steam vende tantissimo, ma con gente che è nata negli anni 80-90. E per chi è nato prima, GOG è fenomenale. Beh, io ho comprato anche da Steam, ma di Steam non mi piace il fatto che poi ci si deve collegare, fare login molto spesso, non sempre, per poter usare il gioco, e il fatto che se domani mattina vendono o chiudono, quei giochi lì spariscono, sì. Mentre quelli che ho comprato da GOG ce li ho, quindi giocare il gioco 3 anni dopo non mi cambia niente, lo pago un quarto e mi diverto uguale. E soprattutto ti diverti anche se va giù la ADSL. Appunto. E senti un po', ma torniamo un attimo al Kimuno. Io ho cominciato a sviluppare sullo Z80 anche io con un compilatore software, e inserivo nella tastierina gli esadecimali. Però non ho le basi così sull'hardware vecchio. Sono dello stesso periodo? Direi di sì. penso che il 6502 sia di poco precedente allo Z80, però non ho davanti le date, per cui non lo so per certo. Mi pare che il 6502 sia del 1975, perché il Kimuno è il 76, sempre a memoria, potrei sbagliarmi, e che lo Z80 sia venuto fuori poco dopo. Ecco, perché io mi ricordo che l'inserimento dei programmi era con questo tastierino dove si inserivano i singoli byte. Mi hai fatto tornare all'epoca delle scuole superiori. Comunque volevo dire, ho controllato mentre parlavate e azzeccato le date perfettamente. Il 502 è del 75, lo Z-Log è stato lanciato nel 76. Quindi perfettamente. Ok, abbiamo qualche Mario neurone che funziona ancora, ma è un caso. Vedi, ma sì, non penso. Bene, bene, bene. E quindi hai cominciato a sviluppare Avedura nel castello con che linguaggio? In Basic, AppleSoft Basic. Poi ho incontrato qualche difficoltà tecnica che è abbastanza ridicola. Oh, questo è un esempio di cosa può fare l'ignoranza e di quanto può essere utile. Dovevo consultare il dizionario, perché quando uno mi scrive una frase io la scompongo in parole e poi cerco la parola nel dizionario, e io non essendo al corrente, e ora riderete, dell'esistenza della ricerca binaria, facevo una ricerca sequenziale, solo che il Basic è lento e la ricerca sequenziale ci metteva un po' di tempo. E si diceva prima dell'importanza del rapporto col giocatore nei giochi, a me il ritardo nella risposta, il ritardo nell'interpretazione del comando non andava giù. Per cui cosa ho fatto? Ho riscritto la ricerca in assembly, invece che usare una ricerca binaria, ma d'altronde non sapevo proprio che esistesse, non avevo una formazione informatica, anche perché informatica non c'era. E soprattutto non c'era Stack Overflow dove chiedere ma com'è che la faccio questa cosa qua, oppure dove qualcuno l'aveva già chiesta tipo eoni prima. Sì, ho visto giusto ieri uno spoof di una copertina di Stack Overflow, di un libro, un immaginario libro dell'Aurei, Copying and Pasting from Stack Overflow. Sì, gira su Facebook da qualche giorno, è bellissimo. Sì, sì. Beh, però ce l'ho con loro perché hanno usato un bradipo. Il bradipo è il mio totem. E il vero bradipo non copia e incolla, il vero bradipo cerca di capire a fondo, ci mette un sacco di tempo, ma tutte le volte dopo non deve fare nessuna fatica, quindi alla fine ha lavorato di meno. Giusto. E quindi io sono un bradipo. Che è il teorema principale dello sviluppatore. Lo sviluppatore fa le cose per bene per non doverci mettere le mani dopo. Vabbè, ma in teoria, perché moltissimi sviluppatori copiano e incollano Stack Overflow senza capire cosa succede. Questa è una cosa, una piaga odierna anche. E poi si incarta tutto e non sanno dove mettere le mani, perché sanno che quel codice prima funzionava. Infatti, no, Stack Overflow è utile, però poi vado a vedermi le reference o qualunque cosa di ufficiale o semi-ufficiale per vedere se quelli stanno scrivendo una castroneria, perché un quarto delle volte almeno è così a essere buoni. Un quarto comunque è tanto, Sì, non dico che gli altri tre quarti sia perfetto, è la risposta giusta. È meno sbagliato, in realtà. Ok. Bene, bene. Allora, e quindi hai cominciato a sviluppare Avedura nel castello. Se ci tiriamo fuori dall'ambito dell'informatica, come ti è venuta questa idea dell'avventuriero che cade con l'aereo nel castello? Allora, qualcuno mi ha fatto notare che, purtroppo non svincolandosi dall'ambito dell'informatica, che c'era un'avventura, esiste su Commodore 64, un'avventura che si chiama Crastor Manor, che inizia così, o più o meno così, comunque con aereo che cade. Può darsi, però non ne sono certo, che io abbia giocato l'inizio su Apple II, e questo potrebbe in subconscio avermi lasciato l'idea. Consciamente sicuramente no. Mi serviva comunque un'introduzione al fatto che desse un senso al fatto che uno fosse chiuso dentro nel castello. Quindi mi è venuta in mente quella lì. Come mi sia venuta in mente, è difficile ricostruire i processi inconsci. Un sogno che magari ti tornava ogni tot, l'incubo di perderti dentro a un castello. Non è uno dei peggiori. Ah, bene. C'è di molto peggio, non so, andare a lavorare alla Microsoft, che ne so. No. Ce ne sono di incubi peggiori. Dico Microsoft per dirne uno, perché uno grande a caso. A caso, ormai non è neanche il più grande, per cui poverini soffrono del complesso di non essere più il numero uno, bisogna trattarli bene. Ah, bisogna essere un po' accondiscendenti. Tanto loro con te non lo saranno mai, quindi perché esserlo? Dunque, stavamo dicendo, come è iniziato? Beh, è iniziato così, ma ci siamo messi con Chiara per alcuni mesi a raccogliere idee. E generalmente faccio così: se devo scrivere qualcosa, non parto subito, ho la sindrome del foglio bianco. Quindi metto giù appunti, appunti, appunti, appunti. Dopo 2-3 mesi rivedo gli appunti, butto via quelli che non hanno senso, cioè buona parte, tengo quelli buoni, ci lavoro sopra e poi monto assieme. Quando ho una traccia, dopo improvviso. Ah, bene, però, bene. Però mi serve questa traccia e questa serie di idee. Ho fatto lo stesso con l'ebook di Locusta Temporis, solo che lì ho lavorato molto di più. Sì, lì è l'ebook che hai pubblicato con Quinta di Copertina, giusto? Sì, Fabrizio Venerandi, Quinta di Copertina. È una specie di libro game, se non vado errato. Tecnicamente è una specie di libro game. Diciamo che la particolarità è stata riuscire a trovare il modo di riprodurre il feeling di un'avventura classica all'interno di un libro game, quindi non il feeling da libro game in cui io ho tre scelte e o vado di qui o vado di là, ma la sensazione di poter muoversi liberamente, prendere oggetti, agire, parlare con la gente e costruire dei puzzle abbastanza complessi. Anzi, mi sono sbagliato e nei primi capitoli li ho fatti un po' troppo complessi. Direi che ci voleva un po' più di testing con pubblico normale. Guarda, posso inserirmi un attimo? Io l'ho giocato tutti i libri game di Quinta di Copertina e devo dire, questo tempo non mi è sembrato così complicato, non quanto quello di Fabrizio, per esempio, che ancora ma sei un professionista del gioco, intendo. No, quello di Fabrizio è un'avventura relativamente lineare, a parte la zona labirinto. E sono bloccato lì da 2 anni, comunque. E abbiamo anche fatto l'intervista con Fabrizio, ma non gli abbiamo chiesto la soluzione, quindi penso che Mario rimarrà bloccato lì per sempre. Ah, siete sadici. Probabile, ma non me l'avrebbe detto. Cioè, sadico tu, masochista lui. Ok, ma ci divertiamo. Giusto. Bene, bene. Senti, una domanda che a me è venuta istintiva dopo aver giocato un po' già all'epoca, ma come fai a fare il parsing delle frasi, dei comandi che il giocatore scrive all'interno del gioco? Allora, il parsing è relativamente semplice, anche se c'è qualche finezza. Fortunatamente non avevo ancora giocato Zork, perché altrimenti avrei tentato di fare un parser complicato come quello di Zork: prendi la candela e mettila sul carapace della tartaruga, poi fai il solletico alla tartaruga, eccetera eccetera, e non ne sarei più venuto fuori, o meglio, ne sarei venuto fuori ma 3 o 4 anni dopo. Quindi, avendo giocato solo Apple Adventure, io mi sono posto l'obiettivo di fare un parser a 2 parole. Divagazione, avendo giocato solo Apple Adventure e un altro centinaio di avventure nel frattempo, ma erano tutte con un parser relativamente semplice. Quindi, se io dico prendi il gatto, il parser prima fa una normalissima divisione in parole: prendi il gatto, poi mi guarda un elenco di parole da ignorare, sostanzialmente gli articoli, e quindi mi ritrovo con prendi gatto, che chiamiamo verbo e nome, o più genericamente prima parola e seconda parola, perché se io dico lancia la lancia ho due parole uguali e vabbè, la prima la considero un verbo, ma non sempre la prima in realtà è un verbo. Poi cerco le parole nel dizionario e nel dizionario cerco le parole nel dizionario e ricavo il codice di ciascuna parola. Questo è quello che faceva il parser di allora. Quindi mettiamo, se prendi il gatto, ho 10 per prendi e 35 per gatto. A questo punto, e qui è la parte interessante, io vado a cercare un'azione, ma in realtà poi come vediamo più di una, che è 10,35. Se ben ricordo, lo facevo moltiplicando per 100 la prima, quindi diventa 1035, e cerco nella tabella delle azioni se ce n'è una che ha codice 1035, dove le due cifre a sinistra sono il prendi e le due cifre a destra sono il gatto. Se la trovo, quella lì mi punta al pezzettino di codice da eseguire, almeno nella prima versione era semplicemente così. Però c'è una complicazione dovuta al fatto che ci sono parole che hanno azioni che hanno effetto sempre in tutto il gioco, azioni che hanno effetto in uno specifico luogo, oggetti che si possono trovare dovunque e oggetti che si possono prendere oppure che stanno in uno specifico luogo. Per cui il parser, a questo punto direi non è più il parser ma il dispatcher, guarda, prima cerca se esiste nella tabella quella azione nel caso più specifico, quindi uno specifico oggetto in uno specifico luogo in cui mi trovo, e forse anche tra quelli che ho in mano, non mi ricordo come era la sequenza esatta, e poi con una serie di queste ricerche gradualmente arriva fino al caso più generico in cui non trovo il verbo e non trovo l'oggetto. Quindi c'è una graduatoria, una serie di priorità di possibili azioni a partire dalla più specifica fino alla più generica. Ho scritto qualcosa tempo fa per un sito americano, mi aveva intervistato Torre di Fuoco, però al momento non ho il riferimento, cioè ho messo giù abbastanza in forma meno arrangiata l'analisi di questa roba qua. Ma se ti capita di trovarlo, che ce lo mandi, poi noi lo mettiamo sul sito e ce lo leggiamo, perché è interessante questo tipo di algoritmo. Diciamo che c'è anche nel mio parser una scelta che poi ho mantenuto in tutte le versioni successive, compresi i libri per scrivere avventure della 85-86, che è quella di mettere il divertimento del giocatore davanti alla correttezza formale, perché la maggior parte degli strumenti per scrivere avventure tipo Inform partono da un world model, quindi io ho una rappresentazione quanto più possibile dettagliata del mondo e poi gli vedo di interpretare quello che ha scritto il giocatore e di metterlo in relazione con questa rappresentazione del mondo. Questo funziona perché le avventure Infocom sono state scritte con questo, dà una grandissima quantità di possibilità e forse anche troppe, perché essendoci tante possibilità, cosa succede? Che il giocatore alla fine deve dire: guarda il divano, guarda sotto il divano, guarda dietro il divano, poi magari guarda a destra del divano e guarda a sinistra del divano e così via. Alla fine si annoia. Che quindi, devo essere sincero, era un po' come, non so se hai giocato Zack McCracken. Devo confessare con vergogna che è una delle pochissime avventure di quell'epoca lì in cui mi sono piantato e poi mi sono dimenticato di riprenderla. ma io mi ricordo di Zack la frustrazione del dover guardare ogni singolo pixel, provare ogni singolo pixel, cioè diventava veramente veramente una roba noiosa a un certo punto. quello lì del pixel hunting è la, l'equivalente nelle avventure grafiche di quello che nelle avventure testuali era scrivere tutte le possibili combinazioni. È chiaro che dipende molto dall'autore, però ho visto in pratica che per divertirsi basta molto meno. Quindi le due parole erano più che sufficienti, anche perché se io ho un parser a due parole ho meno possibilità, avendo meno possibilità le posso considerare, non dico tutte perché è impossibile, però ne posso considerare molte di più per dare risposte particolari. Quindi il giocatore si trova ad avere una risposta speciale per molte più azioni in proporzione di quelle che può fare. Nel senso che non ha il non ho capito ogni cosa che scrive. Nel senso, tu hai pensato nella stanza chiusa, potrebbe dire butta giù il muro, è troppo complesso. Abbatti il muro, e tu potevi rispondere sotto, ma sei scemo, perché era una di quelle particolari che analizzi. Esattamente. Quindi più il programma risponde a tono e più il programma sembra intelligente nonostante sia più stupido, perché capisce di meno. Ma proprio perché capisce di meno il giocatore se ne rende conto, il giocatore resta nell'ambito delle due parole e quindi io posso dargli più risposte e far sembrare il programma più intelligente di quel che è. D'altronde lo stesso Elisa, uno dei primissimi programmi di intelligenza artificiale che simulava uno psicanalista, sembrava effettivamente molto più intelligente di quel che era, proprio perché andava a prendere delle parole scritte dal giocatore, chiamiamolo giocatore, e gli costruiva delle frasi su quelle, senza capire assolutamente niente. Ah, ecco, perfetto. Quindi prendeva un po' in giro la persona con cui stava cercando di interagire. Cioè faceva finta di essere più intelligente di quello che in realtà fosse. Sì, diciamo che non era stato un obiettivo del progetto, che era un'esplorazione all'intelligenza artificiale molto interessante, ma è stata una conclusione che ne hanno tratto, cioè che sembrava molto più intelligente di quello che avrebbe dovuto sembrare, stando alla logica. Bene, bene, grazie. Interessante, perché alla fine quello che facevi tu era una specie di intelligenza artificiale, cioè devi cercare di capire che cosa il giocatore voleva fare per rispondergli, e penso che all'epoca non fosse proprio una roba così banale da sviluppare. Diciamo non era di uso comune. In realtà, come difficoltà tecnica su questo fronte qui, sì, naturalmente ci ho lavorato un bel po', però non è stata una cosa particolarmente significativa. I problemi sono venuti più da limiti tecnici, perché per prima cosa è finita la RAM, quindi avevo fatto tutto in RAM, e siccome cominciavo a stampare un sacco di risposte è finita la RAM, al che ho dovuto farmi un meccanismo per mettere tutta la roba su disco, andare a prendere la risposta numero N dal disco e buttarla fuori. Rammento che le stringhe delle Pol 2 erano al massimo i 255 caratteri. E la seconda difficoltà era quella ridicola che ho citato prima, del farlo andare più veloce, che ha poi un corollario, perché poi l'abbiamo compilato col compilatore Microsoft e il TASC, Total Apple Soft Compiler, e quello lì ci metteva un'ora e passa a compilare, e quindi ogni volta che c'era a correggere qualcosa, perché non era esattamente uno a uno la sintassi tra l'interprete e il compilato, era una pena. Comunque alla fine è andata, compilare per motivi di velocità più che altro. E la cosa forse tecnicamente più interessante è il fatto che l'Apple 2 aveva la garbage collection delle stringhe, cioè il basic dell'Apple 2, come tutti i basic. Basic dell'Apple 2, che si chiamava Apple Soft Basic, quindi non era più quello originale di Wozniak, che era l'Integer Basic. L'Apple Soft Basic non era altro che il Basic Microsoft, della prima Microsoft, quando ancora erano buoni, perché non avevano abbastanza soldi, venduto in licenza a un sacco di produttori, tra cui la Apple. E le stringhe in questo Basic erano garbage collected, per cui se io costruivo una stringa sommandone anche al pre 2 producevo una stringa temporanea, o se io anche semplicemente avevo 1000 stringhe come data, quindi data in basic sono delle costanti nel programma, costanti stringa, è una tabellina che io mi vado a leggere all'inizio come se leggessi da un file. E comunque se io ho un sacco di stringhe, indipendentemente da come le vado a leggere, e ne creo o ne cancello una, quando mi parte la garbage collection, quello può stare fermo anche tre quarti d'ora. Questo naturalmente è un problemino se io voglio un tempo di reazione umano. Ah, quindi il problema della garbage non è il fatto che ti rovinava l'esecuzione del software, era che lui partiva e ti piantava tutto. Esattamente. Oh, che bello. E quello lì, fortunatamente, c'era un trucco che credo di aver scoperto più o meno direttamente, non ricordo se fosse proprio applicato in quel modo lì, su qualche rivista, poteva essere Micro o una di quelle, o comunque letto da qualche parte che esisteva quella roba lì, un puntatore che si chiamava Hymen e stava tra le variabili, cioè nella pagina 0 del 6502 se non sbaglio, comunque erano due caselle di memoria che formavano un puntatore a 16 bit e indicava dove finiva l'area usata dal BASIC. A quel punto ho scoperto che se io riempivo di stringhe, dichiaravo tutte le stringhe che mi servivano all'inizio, dichiaravo, leggevo dei data, quel che era, e poi spostavo quel puntatore subito sotto al punto dove c'era il mio mucchio di stringhe, quelle lì continuavano a funzionare ma erano escluse dalla garbage collection, e quello mi ha salvato, perché invece di avere, per dire, 1000 stringhe ne avevo 30, e siccome quella cosa va col quadrato diventava perfettamente trattabile. Oh, molto molto bene, direi che ci hai fatto anche un excursus su come funzionava all'epoca tutto l'incubo della RAM che finiva, perché non sembra, ma adesso si comprano i computer o una roba del, cioè tu compri il PC a 8 giga di RAM e puoi fare tutte le schifezze che ti pare. Prima entro, no, certi limiti. Beh sì, è ovvio che se fai una chiamata con un puntatore su un pezzo di RAM sbagliata incarti tutto il sistema, però non c'è più bisogno di ottimizzare per stare in quei pochi K che c'erano all'epoca. Io vedo questa cosa che bisogna cominciare a lavorare sull'ottimizzazione per esempio con Arduino. Beh, ma il risultato di quello che hai detto è che la maggior parte della gente scrive programmi pessimizzati al punto tale che poi alla fine si vede nonostante l'i7 con 32 GB. Sì, vero, ma la stessa cosa vale per la parte grafica. Tanto tutti quanti sanno che tra un anno la potenza delle schede video sarà tre volte quella di oggi. Quindi anche se fanno un software che va lento, tanto le schede video nuove poi lo faranno girare veloce. Io vedo un po' questa tendenza, si risparmia sull'ottimizzazione perché tanto c'è l'hardware che cerca di coprire le schifezze. All'epoca non era così. Beh, questo è un modo di fare molto Microsoft, che alla fine tu più potenza di calcolo e fai qualsiasi cosa sempre più grossa e spesso anche inutile. Come dicevi tu del video, spesso oggi si rincorre semplicemente a quanti poligoni fai e frame rate eccetera, ma non quanto sono belli i giochi perché funzionano. Questo è un criterio purtroppo, sì, che non viene quasi mai usato, quello di porre il gioco davanti alla grafica. Ci sono dei giochi bellissimi che vanno ancora a pixel. Ho appena finito di giocare tutta la serie di Gene Forge, di cui fino a qualche mese fa ignoravo completamente l'esistenza, che sono dei piccoli role playing molto simpatici con un'ambientazione originale e che ho comprato da GOG naturalmente in blocco per pochi euro. Ci ho giocato per mesi. Sì, insomma, oggi non è il caso di spendere 500 euro per una console e 60 euro per ogni singolo videogioco, perché ce ne sono comunque di assolutamente giocabili a prezzi molto più modesti. Sì, ho giocato anche Witcher 2 a prezzo molto modesto, e quindi, che tra l'altro gira bene anche sulla mia scheda grafica tranquilla, che è una GTX 750T presa perché consuma 6 watt quando non lavora. Non si scalda, funziona benissimo. Non sono qui a fare pubblicità all'Nvidia, eh. e un'altra cosa di cui la gente si preoccupa poco: io vedo gente che compra i PC per i nuovi videogiochi e mi dice ci ho messo su un alimentatore da 2000 watt, e tu pensi il contatore della della casa è 3 kW, mentre tu stai giocando devi anche spegnere il frigo. Essenzialmente ora funziona così. Sì, infatti io odio le ventole rumorose, per cui ho preso un case molto arioso, le ventole molto grosse, tutte ventole da 120, non si sente, un dissipatore gigante, non lo sento. Che è la cosa migliore, perché accendere il PC e sentire il classico... il rumore del decollo degli elicotteri è una cosa che è fastidiosissima. Sì. Bene, bene. Mario mi sembra che avesse una domanda, sbaglio? Sì, io stavo, intanto che stavo sentendo e meditavo, ho una domanda, diciamo, adesso che ci hai detto come hai fatto, diciamo, tutto quello del parser, i giochi, eccetera, se tu al giorno d'oggi dovessi riscrivere tutto da capo, cosa useresti? Cioè, ovviamente non penso all'Apple Basic o Basic. Scrivere tutto da capo, intendiamo Avventura nel Castello? Sì, sì, sì. Lua. Userei sicuramente Lua, perché è innanzitutto un linguaggio estremamente compatto e estremamente potente, direi che è l'equivalente ad alto livello di quello che il C è a basso livello, con poche strutture dati con cui si può fare tutto, e soprattutto è un linguaggio di estensione che io posso usare sia per unirlo al C e fare quindi una cosa che ha delle parti a basso livello e delle parti a alto livello con un'altissima efficienza di comunicazione tra i due, sia, e infatti lo usano nei giochi abbondantemente dove sono richieste alte prestazioni, sia posso costruirmi un linguaggio partendo da quello. Infatti, tra le altre cose che ho fatto qualche anno fa, ho costruito un interprete per un videogame, allora lavoravo per Artmatica, e quell'interprete è scritto in C++ la parte veloce esterna, poi usavo parti di rendering fatte da altri, e in Lua tutta la parte, diciamo così, di intelligenza di dati e di avventura, per cui uno poteva, uno intendendo lo scripter, quello che mi crea il livello, che decide, per restare all'esempio di prima, che uno può mettere il gatto in lavatrice, mi scusi il gatto, ma poi sappiamo che esce più pulito di prima senza problemi, perché è un gioco. Quindi uno mi scrive azione.metti.gatto.lavatrice, e questo si tradurrà nel video che uno seleziona il gatto nell'inventario e lo clicca sulla lavatrice. E questo non è la sintassi del linguaggio Lua, ma è una sintassi che ho costruito io e che viene tradotta automaticamente al runtime. Quindi dico che userei Lua perché, oltre alla enorme semplicità nel costruire strutture di questo tipo, mi permette anche di costruirmi le sintassi come le voglio io, entro certi limiti. Okay. Infatti volevo fare un aggiornamento del modulo base, che era il mio programmino per costruire giochi d'avventura, ma poi la potenziale utenza è molto limitata, per cui sostanzialmente non valeva la pena di mettersi a fare la faticaccia. Ok, ottimo. Io non sono un programmatore, quindi sono abbastanza scarso. Mentre tu parlavi del tuo parser, stavo pensando come l'avevo implementato io. L'unico linguaggio che sto più o meno utilizzando ultimamente è Python. Non so se tu ci hai mai messo mano. Vuoi tranquillamente usare Python per farlo. Diciamo, non puoi fare quella parte di costruzione della sintassi, perché devi usare la sintassi di Python, quindi no, sarà sì, un bel po' più verboso e un po' più rigido rispetto a Lua, e non sto confrontandolo con Java, per carità. Però si può fare. Ho avuto un attimo un brivido di paura a sentire Java. Java. Magari JavaScript oggigiorno. Beh, JavaScript si può fare senz'altro, il problema è JavaScript che non si può salvare, quindi se lo metto su un server va bene, se lo metto su una pagina web è un po' una scocciatura, perché poi uno deve copiare, o salvo in un cookie, poi magari uno cancella i cookie perché non ne può più di essere tracciato, come faccio io quando esco dal browser, e li perdi, o comunque non è il modo ottimale, diciamo. Vabbè, diciamo, potresti anche inventarti una stringa alfanumerica unica per quel salvataggio, poi la riapri e riparti da lì. Sì, però devi copiarla e incollarla. Avevo anche pensato un sistema in JavaScript in cui quello ti crea una pagina e tu salvi la pagina con il save del browser. Però restando sul programma standalone, si può fare tranquillamente in Python, è comunque un linguaggio dinamico, quindi è un duck-typed, no? Avete presente cos'è il duck-typed? Per cui è adatto a fare queste cose qui molto più di quanto non siano i linguaggi statici come quello che non nomino, o anche il C. Grazie per la cortesia. Okay. E un'altra domanda, tu hai sviluppato su Apple 2, ma la tua passione per Apple ti è rimasta, oppure adesso basta Apple e cosa usi? Allora, la vera passione per Apple è stata per l'Apple 2, fine. Poi c'è stato un discreto interesse per il Macintosh, che ho anche usato parecchio come strumento di lavoro, perché allora scrivendo corsi per l'edicola, il Mac era ottimale per scrivere. Poi è abbastanza sfumata, soprattutto ultimamente. Ho comprato qualche anno fa un MacBook, qualche anno fa, diciamo 2009 mi sembra, per sviluppare per iOS. Ho sviluppato qualcosa e mi sono provato con l'obolo da versare tutti gli anni a Apple solo per poter usare i propri programmi. Il sistema operativo che cambia, e decidono di cambiare l'interfaccia ogni tanto perché così gli piace e la cambiano. E quindi tutte le comodità che uno si è costruito non funzionano più, per cui alla fine lo usavo da linea di comando. E che in iOS, quando uno ha finito di studiare una pila di manuali alta due spanne, che è un centesimo di quello che può fare, ma è quello che serviva a me, cambiano metà di quelli e non pubblicano le differenze. E dopo un po' cambiano il linguaggio e dicono che ha imparato quello vecchio, vabbè, è vecchio, peggio per lui. Diciamo che non è un'esperienza che mi abbia particolarmente entusiasmato. Per cui attualmente lavoro con quel che capita, principalmente in questo momento Windows per comodità di interfaccia, ma uso parecchio Linux per lavoro, e se non fosse per i giochi e per un paio di programmi per elettronica o per embedded che girano solo su Windows, probabilmente passerei direttamente a usare solo Xubuntu e avrei risolto buona parte dei problemi. La versione più leggera è che viaggia meglio di tutta la sfera di Ubuntu, quindi non so la differenza con l'Ubuntu, però mi aveva dato qualche problema, per cui poi ho visto Xubuntu andava benissimo. Non so quanti anni fa hai usato la Ubuntu, ma da quando c'è Unity, che è l'interfaccia nuova che dovrebbe scimmiottare un po' più o meno il dock di Apple, è una roba terribile. Infatti io quando scarico solo Xubuntu. Avevo sentito, sì. No, dicevo l'Ubuntu, che doveva essere un light Ubuntu, che però non ho sentito citare molto ultimamente. L'Ubuntu l'ho usato settimana scorsa, perché avevo un problema di installazione su un vecchio PC, ed è l'unica derivata di Ubuntu che ha l'installer in modo testo. Ah, ottimo a sapersi, perché ho giusto un'amica che ha un vecchissimo netbook che magari può valere la pena usare quello. Io ho avuto delle difficoltà a installare su un vecchio nettop, perché la scheda video mi andava in pappa durante il setup, e ho scoperto classico. Che è l'ultima che tu puoi installarti in modo testo, e poi a questo punto riesci ad andare a pacciocare sulle impostazioni, ma almeno il sistema ce l'hai. E non siamo neanche fuori tema, perché parlavamo di avventure testo, quindi giusto, in modo giusto. Testo. Una avventura nel modo del testo. Poi, installazione. Tra l'altro ora si usa abbastanza il testo come grafica, cioè i caratteri asci, cioè il modo testo è una grafica fatta sull'interfaccia a carattere, quindi non è neanche così antipatica e difficile. Mi piacerebbe saper fare ASCII art, ma purtroppo tutto quello che è arte grafica è al di fuori delle mie possibilità. Ma o ce l'hai dentro o non è difficile, se non ce l'hai, riuscire a impararla, secondo me. Probabile. E ora invece cos'è che fai nella tua vita? Perché ci hai parlato di sviluppo, ci hai parlato di elettronica. Vorrei solo dire agli ascoltatori questa piccola nota di colore, che Enrico qualche giorno fa mi ha mandato lo schema disegnato su un pezzetto di carta del suo preamplificatore per il microfono. Io ho studiato elettronica alle superiori, ma non l'ho saputo leggere, quindi lui è assolutamente, come lo definiremmo noi, è un nerd doc, perché è nerd su ogni ambito, in ogni settore. E cos'è che fai oggi? Cioè, uno, come sbarchi il lunario? Due, quali sono i tuoi hobby, dove ti piace metterti lì, oppure se sei così fortunato che le cose coincidono? Non sono così fortunato in questo periodo, diciamo che lo ero quando lavoravo nei videogame, esperienza che purtroppo è durata poco, perché la crisi ha costretto un drastico ridimensionamento e cambio di obiettivi dell'azienda, e quindi non è stato più possibile lì continuare. È poi rinata con altro taglio, c'è ancora, fanno i loro giochi, però non più nell'ambito delle avventure per computer. E attualmente io faccio una cosa sostanzialmente noiosa, anche se ogni tanto ha qualche aspetto interessante, che sono consulenze industriali in ambito embedded, quindi tutto ciò che sta tra il software e l'hardware in mezzo, che ha il vantaggio che, siccome ci sono i softwareisti, ci sono gli hardwareisti, ma generalmente parlano due lingue diverse. Allora, uno che parla entrambe le lingue è in grado innanzitutto di parlare con entrambi, e poi di fare quella parte, lavorare nella terra di nessuno, dove tutti e due si trovano un pochino a disagio, con le dovute eccezioni naturalmente. Però è un lavoro tecnico, io preferisco i lavori creativi quando possibile. Quanto a come passo il tempo al di fuori del lavoro, oltre a giocare naturalmente, vado a spasso, nel senso che mi piace parecchio camminare. Il mio sogno sarebbe, ma richiede un po' di dotazione economica, partire e andarmene a Capo Nord a piedi. Ah, c'è, cioè, proprio roba di un certo impegno, non la passeggiata in montagna per poi tornare la sera. No, quello che vorrei fare, quello che faccio, è la passeggiata magari anche sulle colline qua dietro, senza, io sto vicino a Brescia, proprio all'inizio delle Prealpi, per cui posso andare su sulle prime collinette, che andando più in là diventeranno montagne, poi quando crescono, e farmi una girata quando non sono piene di fango, come in questi giorni, perché adesso con l'acqua che è venuta giù è impossibile. Poi naturalmente leggo, anche se è un po' difficile magari trovare il tempo, però ho appena letto una bella antologia di racconti fantastici su animali immaginari, e faccio una cosa curiosa. Per scelta ho deciso di fare una cosa che mi interessava, ma per cui sono assolutamente negato, che è di provare a imparare qualche rudimento di chitarra classica. Il motivo da fare una cosa per cui sono negato è per evitare di arrugginire i neuroni, perché se io continuo a fare le stesse cose, cioè se io devo programmare un microcontrollore, lo faccio dormendo, nel senso che non devo impegnare nessuna parte significativa della mente, e la cosa è un po' rischiosa, perché poi uno alla fine resta nel suo solco e è difficile uscirne. Per uno che vuole essere creativo è una maledizione questa, per cui io mi sono messo a affrontare quella che per me è una difficoltà enorme, ma che così dà qualche soddisfazione. Ehi, sono riuscito a fare queste quattro note giuste, più o meno. Beh, è un ottimo modo per l'uscire dalla routine solita, tiene attivi, non c'è nessun altro modo, purtroppo, quindi bisogna sforzarsi, sì. Assolutamente sì. E, mi hai fatto vedere, prima che cominciassimo a chiacchierare, un tuo progetto su Arduino, che tra l'altro è un progetto con l'audio di un certo livello. È una cosa che hai fatto spot, oppure è un tipo di piattaforma, o è il movimento che ora sta venendo fuori, quello dei maker, una cosa che ti interessa? Allora, hai sollevato tante questioni. Partiamo dall'aggeggino che ho fatto, che si chiama Play V6, in quanto suona 6 voci e richiama un po' i motori V6, no? E io ho preso un Arduino perché mi sono chiesto cosa sarà questa roba di cui tutti parlano. L'ho preso, gli ho dato un'occhiata, ho visto che sostanzialmente è un sistema per consentire a chiunque di muovere i primi passi nella programmazione dei microcontrollori, o di fare delle cose senza necessariamente capire come funzionano. Ha il suo interesse, però a me non interessava particolarmente, per cui ho detto, già che ce l'ho, cosa ci posso fare? Ho detto, proviamo a fare un simulatore di chitarra, che poi per successive modifiche e evoluzioni è diventato quel suonatore a 6 voci che adesso è un progetto spot, effettivamente, anche se ci sono dentro mesi di lavoro. L'ho usato anche per dire, volendo rientrare nel settore, vediamo se ho ancora la mano, perché sono 30 anni che non programmo questi aggeggi, e in 30 anni non è cambiato niente. Sì, sono cambiati i chip, sono cambiate le periferiche, però i concetti sono assolutamente identici. È come se in campo informatico i computer fossero ancora molto simili all'Apple II, che per certi aspetti magari sono, ma non così simili. Invece in elettronica è proprio così simile, è ancora tutto come prima. Secondo punto, hai detto il movimento dei maker. Secondo me, quando una parola viene presa dalla stampa generalista, c'è da preoccuparsi, questo lo sappiamo bene. Assolutamente sì. Maker è semplicemente un sinonimo di quello che una volta si chiamava hobbista. Quindi all'interno degli hobbisti, chiamiamoli maker per farli contenti, c'è una grandissima maggioranza che prende, vede il video su Hackaday, se è di quelli sofisticati, si prova a fare qualcosa del genere, segue le istruzioni, trova un progetto a qualche parte, lo monta uguale, funziona, è contento. Poi c'è una piccola minoranza che prova a fare le sue modifiche, fa qualcosa di originale e crea magari qualcosa di originale. Dove originale non dico che butta fuori una schermata rossa invece che verde, perché spesso l'originale è quello che fa più scena, viene considerato quello che fa più scena. Qualcuno che fa qualcosa di veramente originale c'è, e qualcuno ancora di meno c'è, che cerca di capire effettivamente come funzionano le cose. Sono pochissimi, sono sempre stati pochi, anche all'epoca in cui il maker, tra virgolette, dell'epoca era quello che si andava a comprare le riviste di elettronica e saldava 4 transistor per costruirsi il circuitino. Quindi sostanzialmente non è una novità, è una cosa di moda. Ma io noto che in questo settore sia stato fatto un piccolo passo in avanti, perché ora con queste piattaforme, secondo me, rispetto a quando io mi sono messo a giocare con l'elettronica a metà degli anni 90 è un po' più facile, nel senso che con Arduino tu puoi farti il tuo progetto in effetti senza dover sapere l'elettronica di base. Certamente, se l'obiettivo è costruire qualcosa, è più facile costruirlo con i Lego. L'Arduino è un Lego, sì, giusto. Mi dà dei pezzi già pronti che si incastrano tra loro, quindi è molto più facile costruirlo con i Lego che andando a segarsi i pezzi di legno e montandoli assieme. Verissimo, che è il paragone fatto con il mi monto il transistor e calcolo quali sono le resistenze che devo mettere per fargli fare da amplificatore di segnale. L'altra faccia della medaglia, naturalmente, che se io tolgo l'Arduino e ci metto un Raspberry Pi, quello che ha montato il progetto lo guarda e dice: questo cos'è? Sì, perché cambia tutta la parte di interfaccia con la parte hardware. Quindi uno ha imparato a alto livello a mettere assieme dei blocchetti, però concettualmente non sa come funzionano quei blocchetti, quindi c'è il lato positivo che si fa prima a costruire qualcosa e il lato negativo è che non si è in grado di rifare quella cosa lì senza dipendere dai blocchetti già fatti. Sì, dalla piattaforma su cui sei partito, che alla fine è un po' quello che fa lo sviluppatore che si fossilizza solo su un linguaggio ma non evolve con l'evolvere degli altri linguaggi. Sì, direi sì, è una cosa simile. Il sedersi sugli allori fa invecchiare molto molto in fretta. Sì, effettivamente. In questo ambito poi moltissimo. Anche se poi vecchio e nuovo sono termini relativi, perché se guardiamo il C è ancora un linguaggio modernissimo e altri linguaggi sono apparsi dopo, sono scomparsi o sono caduti in disuso. Quindi se io dovessi scegliere il linguaggio a portarmi sull'isola deserta, mi porterei il C, perché con quello posso costruirmi tutto quello che voglio anche ad alto livello. Verissimo, è anche vero che è uno dei linguaggi più ostici, nel senso che se vuoi imparare bene a sviluppare usi il C, se no ti metti su adesso con Visual Basic ed è tutto più facile. Sì, dipende da quello che vuoi fare, diciamo che forse consiglierei Python più che Visual Basic se uno proprio non deve fare l'interfaccia utente, perché è un po' più umano. Ma il C, e la cosa divertente è che all'epoca, quando incontrai il C nel 85 penso, a quelle parti lì, era un linguaggio a alto livello, perché noi eravamo abituati a lavorare in assembly, quindi il C era una cosa fenomenale. Oggi è un assembler portatile che sì, mi permette di... Oggi nessuno mette più le mani sull'assembly, ma con il C praticamente arrivi all'hardware diretto, suppongo. Sì, anche se saper leggere l'assembly senza necessariamente saperlo scrivere è utilissimo, perché per esempio in quella player musicale io avevo un limite di 255 cicli macchina, anzi se considero tutto il blocco 512 cicli macchina per gestire 6 voci, 6 ADSR, quindi attacco e rilascio delle varie voci, l'interpretazione della musica eccetera eccetera, quindi il tratto critico, la parte critica, quella che suonava le 6 voci, doveva assolutamente stare in 255 cicli macchina, anzi un po' meno, e quindi io mi stampavo, scrivevo in C, producevo l'assembly, me lo guardavo, dicevo non ci siamo, modificavo il C finché ottenevo l'assembly come volevo io, e quindi ho dimezzato più o meno le dimensioni, il tempo di esecuzione più che le dimensioni, con un bel po' di lavoro di questo tipo. E non è cosa da tutti, diciamo che se una persona dovesse fare una cosa simile con Arduino si scontra e poi dice vabbè, non si può fare. Ma è questione di approccio e di prendere le cose con una certa calma e imparando un pezzo alla volta. Certamente l'aver vissuto tutta la storia dalle tubi termoionici, perché ho cominciato con le scatole esperimenti a bambino che usavano le valvole, fino a vedere nascere a vedere arrivare qui, diciamo, i transistor, i primi circuiti integrati, i primi microprocessori e così via, il vantaggio di avere la panoramica, di poter vedere tutta la filiera, rende molto più semplici le cose. Uno che parte oggi si trova tutto questo immenso stack, non se lo può imparare tutto di colpo, quindi da qualche parte deve iniziare. Va benissimo che inizi con le librerie di Arduino e ottiene subito i risultati, però poi se ha la curiosità di andarsi a vedere come funziona dentro e gradualmente scendere di livello, ci guadagna un bel po', ma richiede fatica. La fatica non è molto desiderata generalmente. No, né la fatica né sporcarsi le mani. Bene. E che cosa ne pensi del in questo periodo sta venendo fuori questo voler insegnare ai ragazzini a mettere le mani sul codice, a imparare a pensare in maniera algoritmica, i coder dojo e queste cose qua. Beh, come sapete, ho contribuito a un libro per le scuole elementari basato su Scratch, che è il programma dell'MIT, il programma gratuito dell'MIT per insegnare, per far giocare i bambini con l'informatica. Io ero perplesso fin dall'inizio proprio sul fatto che se sia opportuno o meno insegnare l'informatica nelle scuole, perché se io insegno informatica è un po' come poteva essere un tempo insegnare a usare la macchina da scrivere, è una cosa che quando uno ne ha bisogno la impara, sarebbe meglio insegnare a pensare. Mi hanno fatto giustamente notare, mi ha fatto notare Andrea Ferraresso, che è il principale autore e ideatore di questo libro, che questo è vero, ma è anche vero che se io faccio giocare un bambino con un qualcosa che gli dà un feedback oggettivo, lui vuole far muovere il suo personaggio, la sua macchinina disegnata sul video, e quella lì si muove più lento o più veloce di quello che lui voleva. Questo è un feedback oggettivo che non è quello dell'insegnante, che uno magari pensa però è perché gliel'ho detto così, ma l'insegnante ce l'ha con me, non ha capito. No, hai davanti una macchina che non fa quello che vuoi tu, quindi effettivamente sei obbligato a applicare un minimo di logica, a correggere, provare, vedere se va o non va, e quindi non è tanto l'informatica che ha senso insegnare, ma è questo tipo di operazione che porta a sviluppare un ragionamento logico di cui c'è grandissimo bisogno. Sono molto d'accordo, il fatto di cominciare a mettere la logica nelle cose che si fanno, ma anche quotidianamente, potrebbe portare al miglioramento medio della vita. Il fatto è che non si pensa così. Infatti, e temo quello che potrà essere o potrebbe essere un programma ufficiale ministeriale nelle scuole. Quindi vedremo. Ma non resta che aspettare, ci sentiremo tra qualche anno e magari ti reinviteremo e tireremo le fila di questa cosa. Mario, mi sembra che avesse ancora una domanda tecnica per te, poi c'è la domanda divertente. Aspetta, quale delle scelte? Quelle che abbiamo con le scale? Quella dell'IoT. Ah, ok. Ok, prima quando parlavamo un po' della roba tipo Raspberry, Arduino eccetera, mi è venuto in mente un po' di chiederti cosa ne pensi di queste parole che sono diventate molto di moda, dell'IoT, cioè dell'Internet of Things. Ho letto un po' in giro pareri, tra cui diceva cioè un nome idiota di cose che esistono da anni e sono diventate di moda adesso. Non so se hai qualche idea a riguardo, cioè c'è una cosa che esiste, ha senso, che oggi serve, che è solo moda o marketing o... Beh, inizio con una citazione che non mi ricordo più chi fosse, se Oscar Wilde o Mark Twain o qualcuno di quel livello lì, o perlomeno l'avevano attribuita. È molto difficile fare previsioni, specialmente sul futuro. Fatta sì. Questa premessa, a me l'impressione che dà è quella di una moda spinta all'interesse commerciale, però non si sa mai dove vanno a finire queste cose, per cui potrebbe effettivamente saltarne fuori qualcosa di interessante. I rischi li conosciamo tutti, il fatto che sia hackerabile l'intera casa, l'impianto di riscaldamento al forno o l'incubo dell'interruttore, come lo chiamo io ho un interruttore alla luce, lo metto su, funziona per 30 anni, non mi dà il minimo fastidio. Se io metto su un interruttore IoT, devo fargli un aggiornamento software tutte le settimane quando va bene, ogni tanto si mette a lampeggiare la luce, dopodiché va fuori produzione, devo cambiare l'interruttore perché si è rotto e non è più compatibile, devo cambiare tutti gli altri e il computer centrale e il sistema operativo e così via. Però avremo modo di vederla sulle automobili prima questa cosa qua, per cui è interessante stare interessante nel senso del proverbio cinese, della maledizione cinese, che tu possa vivere in tempi interessanti. È interessante vedere cosa ne verrà fuori. Diciamo che se partiamo dalle macchine, quello che è venuto fuori non è proprio così incoraggiante, perché abbiamo visto che alcune Fiat da remoto in America con il loro nuovo sistema erano assolutamente controllabili. C'è Nissan che è uscita con un'app fatta in modo tale che c'è uno che ha fatto lo scanning di rete, si è sviluppato la sua app, ne ha preso controllo, l'ha accesa, l'ha spenta, l'ha fatta frenare, ha fatto tutto. Quindi non è un inizio molto molto buono, mettiamola così. Io ho letto quella lì e il bello è che teoricamente in quel sistema operativo lì c'era un air gap, quindi un isolamento totale tra il sistema radio entertainment, come lo chiamano, infotainment, e i sistemi del motore, che però in realtà di fatto era superabile con relativa facilità. Quindi sì, ci saranno più problemi, diciamo che ecco, potrebbe essere come è stato il passaggio dal personal computer al computer connesso a internet. Opportunità in più e tanti problemi in più. Leggevo che c'è ancora, per tornare ai rischi dei computer connessi, il virus che più gira nelle macchine adesso è il Configer, è uscito 8 anni fa. Di nuovo. Non è un rientro, cioè io pensavo che ormai pecciate le macchine XP, nessun problema. Ho letto una statistica che da quando è uscito è il virus più presente nel mondo. Curioso. Quindi c'è ancora un sacco di gente che infetta con quel virus e non lo sa. Curioso. È pauroso anche, oltre che curioso, direi, perché comunque si è evoluto il tutto, ma la sicurezza non gli è andata dietro di pari passo, secondo me. Poi è ovvio che più le cose sono complesse, più i bug sono facili da realizzare, e quindi questo rischio c'è. Però quando, cioè, se ti si infetta il PC di casa, che perdi le foto delle vacanze, non muore nessuno, ma nell'attimo in cui qualcuno dice no, non freni più, magari qualcuno muore, oppure ti manda in corto l'impianto di casa e la casa va a fuoco, qualcuno muore. È questo che comincia a essere un po' pericoloso. E stavo appunto pensando che adesso i virus che girano parecchio anche in Italia sono quelli che crittografano i file e chiedono il riscatto, che sono più insidiosi di quelli che li cancellano, perché uno se ne accorge in ritardo naturalmente, e anche psicologicamente sono più insidiosi. Se uno magari tiene un backup, è bravo, però sul backup ci ricopia quelli precedenti, rischia di ricopiarci quelli già danneggiati. Ora spostiamo questa roba sulle automobili: se non mi paghi il riscatto ti faccio uscire di strada, oppure banalmente te ne stai qui e non torni più a casa. Vero, vero. Ma... e se hai la carta di credito in tasca, paga subito. Hai appena dato una idea al terrorismo del prossimo secolo. Ce la vanno già. No, diciamo che le case automobilistiche devono farsi l'esperienza che si è fatta Microsoft, che bisogna dargli atto che a un certo punto hanno capito la situazione e hanno reagito correttamente. Google deve ancora capirla del tutto, e le case automobilistiche sono convinte che sia solo questione di sistemare il software. E invece no, solo che non imparano dalla storia. Il problema è questo. Infatti. Volevo aggiungere una piccola cosa su questa storia della sicurezza. Un'impressione che ho è quasi tutti i problemi di sicurezza, come quello che dicevate dell'auto, anche quello che era Samsung delle televisioni che ti spiavano e via discorrendo. Con l'IoT è molto legato al fatto che quasi tutti i grandi produttori cercano di fare tutto per tenersi, un po' come Apple, tutti chiusi in mondi in cui nessuno può mettere mano. Quindi anche se ci sono dei bug, come in posti come Linux, come nell'open source in generale, nessuno può andare a vedere e scoprire i bug, renderli pubblici. Quindi cose del genere, se un produttore va scomodo di dirlo al pubblico che c'è un bug del genere, posso rimanere lì per anni e nessuno può dare una mano per migliorare la sicurezza generale. Quindi secondo me, finché non svilupperanno uno standard che esagererà i milioni che esistono, però che diventa standard di fatto per questo tipo di comunicazioni in cui tutti possono metterci le mani e vedere che passa, non ci potrà mai essere un livello a cui io personalmente mi potrei sentire sicuro di sapere che sta succedendo a casa mia. Non mi affiderei mai a tecnologie di Microsoft, Apple, Google, eccetera, completamente. Poi c'è un problema. Ah, scusa. Prego, prego. Poi c'è un problema con l'IoT, è che spesso viene utilizzato o verrà utilizzato in dispositivi di basso costo. Quindi l'azienda che lo produce non è in grado di supportare il dispositivo per un lungo periodo, nel senso che proprio non gli conviene, perché gli costerebbe di più di quello che ci ha guadagnato a venderlo. E quindi o fa pagare l'assistenza per ogni dispositivo, che difficilmente la gente pagherà, perché i dispositivi nell'idea, almeno nella loro idea, saranno tanti, o, come succede già adesso con i router, semplicemente smette di mandare le patch di sicurezza dopo 2-3 anni. E questo crea una situazione poco simpatica. Ma non solo con i router, il televisore, io ho uno smart TV che ha 4 anni e si è aggiornato per i primi 6 mesi, poi basta. Non male. Quindi cioè, è proprio un dimenticarsi dei dispositivi e della sicurezza di chi se li è comprati, perché ora davvero anche il televisore, se lo hackeri, può essere un pericolo. Sì, beh, non siamo molto lontani dalla situazione di Orwell. Ci stavo giusto pensando, guarda, quando ho parlato televisore e hackerare, ho pensato chiaramente alla scena di quando lui fa ginnastica al mattino. Brividi. E io, allora, visto che il tempo con Enrico è volato, io avrei tipo altre 8-9 milioni di domande, le riassumo in una domanda finale che è poco tecnica ma è molto divertente. Quali sono i tuoi 3 videogiochi preferiti da sempre? Oh mamma. Allora, uno è facile, Ultima 4 Quest of Avatar, in quanto estremamente completo, con una visione grandiosa e giocabilissimo. Gli altri due, ce ne sono talmente tanti che qualunque ne cito faccio un'ingiustizia. Un giochino che mi viene in mente e che probabilmente è pochissimo noto è Perfect General 2. L'abbiamo giocato un sacco con un amico, anche lui è appassionato di giochi di strategia, e sto guardando in questo momento proprio la confezione originale con tutte le espansioni, e l'abbiamo giocato poi anche che quando è che siamo partiti a giocarlo probabilmente con Windows 95 e ogni tanto lo tiriamo fuori ancora con l'emulatore, con DOSBox che emula la connessione IPX sopra TCP/IP e si riesce a giocare ancora. Sì, è un gioco del 95, mi sembra che 95. Se non vado errato. Può essere, a me sembra più vecchio, però da non confondersi con Panzer General, qualcuno che ha un nome simile. No, stavo guardando giusto quello lì. Ah no, 94. 94, sì. Sì, beh, lo giocavamo effettivamente su Windows 95, quindi sì. Perfect General 2. Poi, e terzo? Allora, ho citato un roleplay, ho citato, facendo naturalmente torto a mille altri roleplay. Però sai che lo hai detto talmente di getto che è quello che sicuramente ti ha colpito di più. E spero di aver azzeccato il numero, dovrebbe essere il 4 questo Avatar. Quindi cosa ci mettiamo? Un adventure, anche lì, beh, Monkey Island 1. Ok. Su quello siamo assolutamente d'accordo. È stato davvero una pietra Monkey Island. Cioè, nessuno che non abbia giocato Monkey Island può essere definito un videogiocatore, secondo me. Il primo poi è stato fenomenale. Molto più bello di tutti gli altri. Il primo, un'originalità che secondo me sì. Non è... Nel passare del tempo nessuno lo ha mai raggiunto. Effettivamente sì, è di alto livello. Ci hanno provato con Day of the Tentacle, non so se ci hai giocato. Sì, ho giocato, beh, non è allo stesso livello, bello, no, assolutamente non è allo stesso livello. Bene, direi che... Mario, tu hai altre domande? No, sono soddisfattissimo così, devo dire. Molto, molto bene. Allora, Enrico, ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi. Se gli ascoltatori volessero contattarti, dove ti possono trovare? Allora, e dove tu sei disponibile a rispondere? Facciamo un giochino anche qui. Io do il link del mio sito, che è www.erix.it, Erix con la X, e lì da qualche parte c'è il mio indirizzo di posta elettronica, così perfetto. Se uno vuole scriversi lo cerca. Molto molto bene, allora lasciamo il link. Mario, tu vuoi dare le chiusure? Ok, perfetto. Allora, come prima cosa voglio ringraziare di nuovo Enrico per il suo tempo, disponibilità e per tutto quello che ci ha fatto scoprire e conoscere in questa breve chiacchierata, quindi grazie mille. Grazie a voi per l'ospitalità e la simpatica chiacchierata. Allora, e come sempre vi ricordiamo in chiusura i nostri contatti, ci trovate su tutti i principali social network come Twitter con l'account at GeekCookieCast, la nostra mail solita è geekcookiespodcast@gmail.com e il nostro sito come sempre lo trovate a geekcookies.github.io, anche su Facebook alla pagina GeekCookieCast e in più su Google Plus trovate la nostra community GeekCookie Podcast. Inoltre, come sempre vi ricordiamo, potete trovare il nostro podcast sia direttamente sulle RSS sul nostro sito oppure tramite iTunes o Stitcher. Se vi è piaciuto quello che facciamo, vi piace, per supportarci potete sempre venire su queste piattaforme e fare un po' di recensioni che ci aiutano sempre a avere un po' più di visibilità. In ultimo vi ricordo che abbiamo aperto ultimamente un forum sfruttando il nostro repository della pagina, quindi se voi venite su geekcookies.github.io o andate a trovare il nostro repository GitHub, che cercando utente GeekCookies, tra le issues potete cominciare a trovare discussioni in cui i nostri utenti e noi discutiamo su alcune cose, domande, consigli, risposte, progetti, eccetera, e in modo che rimangano lì. Noi finalmente abbiamo risposto a diverse mail sui social network, eccetera, però abbiamo pensato che rimane sempre oscurato, chiuso da qualche parte, così è pubblico, chiunque può andare a vedere e contribuire alla discussione, aumentare un po' la base di conoscenza di cose con cui discutiamo, di cui vogliamo discutere con i nostri ascoltatori. In ultimo vi ricordiamo che secondo sul nostro sito abbiamo diversi link Amazon tramite i quali, se compare, ci date un piccolo contributo e possa servire a aumentare il nostro hardware, a fare qualche giochino come l'altra volta col Lo cacciate solo per Raspberry Zero. E in ultimo vi ricordo che la sigla, come sempre, è sempre quella di Pornophonic da Giamendo, e quindi, essendo Creative Commons, vi diciamo dove l'abbiamo presa e dov'è. E come ultima battuta triste, abbiamo provato, richiesto, eccetera, e vi ricordiamo che il codice Udu è terminato, è il codice che abbiamo avuto per un annetto circa per potervi avere un piccolo sconto sulle schede della Udu, quindi speriamo che ne abbiate approfittato, le abbiate comprate, usate, e fateci sapere le vostre esperienze in merito. Quindi con questo abbiamo terminato ed è tutto, se non avete niente da dire io passerei ai saluti finali. Io non dico altro che se non un grandissimo grazie a Enrico, davvero, grazie mille. Grazie a voi anche per tutto il lavoro che state facendo con queste conversazioni interessanti. Grazie. Okay, grazie allora, mille a te. Noi con gli ascoltatori ci risentiamo alla prossima puntata. Un saluto da Torino da Francesco. Saluto da Mario da Berlino. E da Enrico da Brescia o dintorni. Ciao. Grazie a tutti, ciao ciao. Ciao. Hai visto la mia, che ti ho mandato un'immagine su Skype, Enrico? Quella di su Android? Sì, funziona, sì, una bellezza, carino. Ma funziona. DOSBox come va su Android? Guarda, c'è un port ufficiale DOSBox, che dicono tutti che era uno schifo, mentre questo qua è un port non ufficiale fatto per, penso, dungeon crawler e cose del genere, che va fantastico. Cioè davvero va... Ah, ecco. Ma io quello ufficiale non l'ho provato, ho solo letto nei commenti, però penso che per una roba solo grafica non sia un problema. Avevo sentito anch'io qualcosa che non andava molto bene, quello ufficiale. No, ti posso mandare il link su questo, e non ho avuto alcun... ho solo messo l'eseguibile e lui via, non ha nessun problema di niente. Tra l'altro è carino, ho potuto mettere un po' di tasti custom, in tutti i tasti funzionano, me li sono messi touch sullo schermo, in modo da poter fare un po' più velocemente le cose. No, comunque devo dire.